che Higuain ci abbia un po' di febbre e che Insigne se ne rimane a casa. Fine. Il problema è risolto. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Manda in porta Higuain, che stavolta non perdona. 21 gol in 21 partite, è sempre il Pipita. Mertens va via, gol sinistro, che gol del 4-2, lo firma Mertens. Ma guarda, io sono un amante di ciclismo, se in una tappa ci sono 5 colli solitamente passa primo sul terzo collo e non vince. Quindi è inutile guardare la classifica a destra, c'è una vita da giocare, ci sono tantissime prove da fare, noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, vorremmo avere la certezza di poter continuare a farlo, ma non ce l'abbiamo perché il nostro storico non ci consente di poter dire questo. C'è Pogba, viaggio veloce Pogba, accompagnato da Khedira, Pogba la mette in mezzo, Dybala, porta il tiro, rete, Dybala, la Juventus è in vantaggio. Mancano 17 partite, c'è spazio e punti per tutti per rientrare in corsa. Questa vittoria è una vittoria importante perché è una di quelle partite che durante la stagione non dico che le devi vincere per forza, però vincendole sicuramente ti danno un bello slancio. La Juventus è cresciuta nei singoli giocatori e di conseguenza è cresciuta la squadra. Giorgio De Luca, traduttore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bin in redazione. Il disegno è ormai chiaro, i tratti emersi la settimana scorsa sono più nitidi, e i colori sono l'azzurro, il bianco e il nero. Questi sono i colori dello scudetto. Allora, c'è un esercito di ascoltatori preoccupati che riassumo con questo messaggio: non è che oggi mi parlate un'ora e mezza di Mandzukic e De Rossi, vero, anche perché non sappiamo quante gliene può aver dette Mandzukic, chi ha iniziato per primo, comunque chi se ne spera, parliamo di calcio, grazie. No, parleremo anche di questo, ovviamente, non di questo per un'ora e mezza. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Molto bene, disegno definitivo o definito, definitivo sì, è un po' sì, tanto, sì. Ma è definito congruente, è congruente con i valori. Perché appunto insomma credo che queste siano le due squadre migliori del campionato e quindi è abbastanza logico che se la giochino loro. Poi ci sono cose più o meno sorprendenti, io non penso che l'Inter abbia avuto chissà quale crollo perché secondo me non è molto diversa da quella che la prima parte della stagione vinceva 1-0. Non c'è dibattito su questo tra me e te, Pierluigi. C'è dibattito? Non c'è dibattito. Non è molto diversa. Semplicemente non le stanno dicendo bene alcuni esatto, episodi. Cose che invece prima le dicevano molto bene. Secondo me è proprio questa la sostanza e la sintesi. Detto questo, c'era stato a un certo punto, verso novembre, inizio dicembre, una sensazione che l'Inter stesse diventando qualcosa di diverso e di migliore, perché aveva cominciato a vincere una serie di partite, penso a Inter Frosinone, penso a Udinese Inter, con una anche lo stesso Inter Genoa che fu 1-0, ma 1-0 un po' diverso, sì, diverso dava altri. Una sensazione di poter crescere, però comunque si diceva che doveva sbocciare qualcosa che non sta sbocciando e anzi ultimamente l'Inter, diciamo che la fortuna, riassumiamola così, poi nella vita non è mai solo fortuna, però diciamo gli episodi che prima ne giravano bene adesso ne girano malissimo. No, è anche vero che se decidi di camminare sul filo come fa l'Inter, certo. quel golletto di vantaggio che l'Inter tutto sommato riesce sempre comunque a segnare nonostante un problema attaccanti che ieri è stato sottolineato con quasi violenza verbale da Mancini, poi ne parleremo. Se scegli di correre sempre su un filo, devi essere pronto a quel filo a difenderlo con la baionetta nei denti. Come ha fatto l'Inter per tante giornate, esatto, con dei grandi meriti, esatto. Perché poi quando sei sempre sul filo e la porti quasi sempre a casa, come è successo nei primi tempi a questa squadra, vuol dire anche che hai delle qualità, diciamo, di temperamento, di agonismo molto importanti. Sì, poi è anche vero che Napoli gioca in maniera meravigliosa, ma Higuain ne butta dentro 21 in 21 partite, Dybala è il nuovo piccolo mostro del calcio, non solo italiano, insomma, poi le partite le vinci anche con quelli bravi, senza... è chiaro, il Napoli ha un'altra faccia rispetto all'Inter, però la grande delusione di questa prima parte nerazzurra, a parte il fatto che terzo posto, semifinale di Coppa Italia, io resto convinto che lucidamente i tifosi dell'Inter l'avrebbero sottoscritto a inizio stagione a quest'ora del campionato. Però la grande delusione dell'Inter rimangono comunque gli attaccanti. Jovetic su tutti, che gioca più no che sì, e comunque quando lo fa non incide mai. Sì, sicuramente. A proposito del Napoli, io penso che sia la partita di ieri è la partita invece della polifonia, secondo me, nel senso che certamente il Napoli è Higuaín indipendente e non potrebbe essere altrimenti, no? Perché comunque stiamo parlando di una squadra che ha il miglior attaccante del campionato e uno dei migliori al mondo, quindi chiunque sarebbe Higuaín indipendente avendoci una squadra. Higuaín logora chi non ce l'ha, mi verrebbe da dire, parafrasando vecchio Andreotti. No, secondo me c'è questo elemento qui che è la polifonia. Ieri si è vista una squadra che segna con Higuaín, ma segna anche con Insigne, segna con Hamsik, che è in una fase caldissima anche dal punto di vista realizzativo, e trova il gol di Mertens alla fine, che è uno che gioca poco, ma quando entra si fa sempre trovare pronto. Quindi ieri invece secondo me è una partita che rafforza l'identità del Napoli come squadra, come collettivo, e non soltanto come singoli. Certo. C'è ancora qualche piccolo difetto sul quale ha insistito Sarri a fine partita. Fammi dire che Sarri e il Napoli escono da trionfatori da questa brutta buccia di banana. Sì, sì, anche magari... perché questo era il tema di ripomeriggio. Escono da trionfatori, è la dimostrazione che poi nella vita bisogna chiarirsi, spiegare, ed è quello che spero farà De Rossi nelle prossime ore, lo dico proprio pubblicamente dopo averglielo detto in privato, perché sono assolutamente convinto che De Rossi non sia razzista, esattamente come ero convinto che Sarri non fosse omofobo, ma se le cose non le spieghi, non ti giustifichi e magari chiedi anche scusa se qualcuno si è sentito offeso, rimane sempre una macchia addosso. Adesso siamo arrivati al punto che il Napoli giocherà giovedì, noi stasera attività che avremo, fra l'altro, fra i vari personaggi, oltre a De Laurentiis, collegato a Napoli, anche Cecchi Paone, che è il presidente di questa squadra di Positano. Ovviamente Cecchi Paone ha fatto outing, è un omosessuale ed è impegnato per i diritti degli omosessuali, e sarà una partita che avrà un forte valore, che trasmetteremo addirittura in diretta su Mediaset Premium. Questo sicuro. È un'amichevole, ma insomma è comunque il segno che da esci da una settimana come questa. No, da una cosa negativa nasce una cosa che comunque contribuirà, secondo me, a sensibilizzare su un tema importante. Certo. Adesso bisogna chiarire quello stai muto, zingaro di merda, pronunciato ieri da De Rossi, chiaramente con un abiale facilmente leggibile, nei confronti di Mandzukic. 800240024 numero verde, ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Abbiamo preso gol su 2-1, su 3-1, 3-2, ci complichiamo la vita, però meno male, sempre con carattere e forza riusciamo a fare un'altra. Allora, questo fa piacere, però dobbiamo imparare su queste cose. Il mio obiettivo, l'ho detto quando sono arrivato, che ho fatto la prima conferenza stampa, cercare di aiutare i miei compagni, alla società, a vincere il quinto scudetto di seguito. Penso che quello è il mio obiettivo per ora. Poi per i complimenti che mi fanno piacere, però il campionato è ancora lungo, non ho vinto niente. Sulla copertina di questa giornata le fotografie sonore, in questo caso di Hamsik e Dybala, che avete appena sentito. Pierluigi Pardo, salutiamo insieme a Giancarlo Marocchi. Assolutamente. Ciao, l'ho lasciato su un taxi a Napoli 10 giorni fa. Poi che hai detto, Marocchi? La cosa delle squadre che si impegnano dopo la guerra è tutta una polemica, Sì, è tutto un divertimento. Che bello. Tutto un divertimento. Non ci sono più quei bei tempi in cui ci volevano menare. Nessuno riusciva a leggere il labiale, invece adesso o labiale o meno si legge tutto. Cioè, quindi bisogna abituarsi, bisogna fare i conti con questo. Col mondo che è cambiato. Esatto. Una volta si insultava, ma solo per distrarre l'avversario, come ha fatto De Rossi. Adesso il mondo è cambiato, delle volte il mondo cambia in meglio e bisogna adeguarsi, bisogna migliorare tutti e quindi pensare solo a giocare a calcio. Ecco, non era meglio una volta, ci sono altre cose che erano meglio una volta. In questo caso è meglio migliorare tutti. Sì, certo. Senti, comunque quella frase che ha ricordato Pierluigi, quel tuo commento, aveva subito alzato un polverone poi spento da vari froce finocchi eccetera eccetera, sì, eccetera. Ma ha detto male perché potevo essere protagonista. Bravo, tutta la settimana. Dinne un'altra oggi, no, vediamo che succede. No, perché? Però è divertente la cosa, perché secondo me potevano arrabbiarsi le altre squadre, e poteva arrabbiarsi con l'Antuono, invece si è arrabbiato posto, quindi non è che mi ero sbagliato più di tanto. Chiaramente non avevo detto che gli altri si scansavano, avevo detto che non vedevo coltelli agonistici, calcistici tra i denti. E mi sembrava un grandissimo complimento che si faceva anni fa alla Juve di Conte, e che avevo fatto alla Juve di Allegri, perché se sei talmente forte, occupi talmente il campo che gli altri sembrano impotenti, mi sembrava un complimento, però poi ho era assolutamente chiarissimo. Ma certo. Era come secondo me, e questo a proposito dei tempi moderni, era come la frase di Boban, che sulla quale si può, ripeto, discutere, essere d'accordo o non d'accordo. Secondo me è una frase di uno abituato più a Milanello che a Castelvolturno. Ricordiamolo, ma quella dei giri di campo dopo le vittorie a Napoli. Ma in ogni caso era certamente una frase in buona fede, una frase detta, anzi addirittura un consiglio. Quindi, e invece ogni cosa viene subito o di qua o di là. Uno dice una mezza frase sbagliata. E a proposito di questi tempi moderni, secondo me sono tempi migliori. È giusto che se ne parli, è giusto che si parli di quello che è successo in questi giorni, a patto che non ci si inchiodi però alle etichette, patto che questo diventi, come è successo nel caso del Procio, Finocchio, di Sarri e Mancini, un'occasione per parlare di questi argomenti e per trovare una soluzione vera e non di facciata, perché altrimenti uno gli rimane addosso un'etichetta, certo, e si risolve il problema. De Rossi non ha niente contro gli Zingari, ma niente, ma io lo so al 100%, non ho un dubbio su questo. È una frase di adrenalina detta in campo, sbagliata, che esattamente come la frase di Sarri viene fatta e viene detta in quel momento lì per ferire qualcuno o semplicemente per rabbia, perché c'è un kit di linguaggio sbagliato che 20 anni fa era accettabile perché non c'erano le telecamere ed eravamo politicamente scorretti. Magari non lo era, ma non potevi capirlo. Adesso invece lo capisci in modo chiaro. No, ma io invece avevo interpretato quanto aveva detto Giancarlo Marocchi in questo senso sulla Juventus, e andando sulla Juventus, cioè è un po' la sindrome Barcellona, Real Madrid, Paris Saint Germain, Bayern Monaco, eccetera, eccetera, no? Il fatto che tu, quando giochi contro queste, sul fronte interno, parti già battuto, guarda le classifiche. Sì, adesso ci si è messo anche il Napoli. Comunque le squadre non sono abituate, quindi con Napoli provano a contendere, a giocare, però c'è poco da fare. A giocare contro il Napoli gioca meglio, perché ci ha provato il Sassuolo. Io e Parto, prima di perderci nei vicoli napoletani, ci siamo goduti una partita meravigliosa, però alla fine il Napoli gioca sempre meglio. La Juve va un po' più piano, ma occupa il campo e rende inefficace qualsiasi contromossa. In più c'è Dybala adesso, che funziona al pari di Guaini. Per il quale adesso si spende. Leggo accostamenti da brividi, Pier. Sì, ma però se li merita gli accostamenti da brividi. Se li merita, già. Ragazzi, è il giocatore dopo Higuaín, è il giocatore più forte del campionato, è il giocatore più decisivo, è talmente giovane che il margine di miglioramento è sterminato. Ieri ha fatto, in un'azione fra l'altro a gioco fermo, ha fatto quell'aggancio su quel pallone che arrivava da 40 metri, che è una cosa monumentale, per cui certo, parlare di Messi fa ridere, no? Per ora fa ridere, mm-hmm. Non può sembrare blasfemo, però insomma, guardiamo la carta di identità. Siamo veramente al limite, siamo a quel punto che bisogna smettere quasi di paragonarlo agli altri giocatori normali, come Higuaín, quasi lo tiriamo fuori dai paragoni, e anche Dybala siamo a questo punto qui. È certo che lui è molto giovane, però siamo proprio a un passo da metterlo nella categoria proprio di quelli super super. Sì, e poi questo mi fa anche pensare che alla fine non siamo messi così male. Sapete, io sono un ottimista. Stai parlando del campionato italiano? Io sto parlando di quello che abbiamo. Sì, ovviamente non abbiamo nessuno al budget del Real Madrid o del Barcellona, non ci sono dubbi. Ma poi tolte queste, insomma, guardando anche il resto, guardando anche per esempio l'Inghilterra, con le squadre che hanno faticato molto nelle coppe, con delle grandi tradizionali come il Chelsea piuttosto attardata, a me sembra che insomma ci sia un miglioramento. Poi credo che da quest'estate, col nuovo contratto, le società abbiano comunque più soldi, quindi se saranno bravi a spenderli potremo crescere. A me sembra un bel campionato e mi sembra che la qualità complessiva del nostro calcio sia in miglioramento. Non siamo quelli degli anni 90, ovviamente, no, che dominavamo, ma non siamo neanche quelli di 4-5 anni fa. Sei d'accordo, Giancarlo? Sì, sono d'accordo, ci vorrebbe la controprova di una bella vittoria in Europa League, magari una finale o semifinale con molte cose, molte delle nostre, e un altro paio di turni decidono Juve-Roma, chi vuole andare avanti, insomma, lì in Champions. Allora questa sarebbe proprio la certificazione, perché altrimenti siamo costretti a dircelo noi che il nostro campionato è comunque bello e molto interessante. Sì, però anche se ormai è un'altra faccia, Giancarlo, perché, certo. Perché Napoli e Fiorentina, soprattutto il Napoli, che poi è stata eliminata veramente per degli episodi col Dnipro. È la continuità che diventa la forza del momento. Senti, la Juventus sembra un po' stanchina, ma in grande fiducia. È vero che ha usato 27 giocatori, il Napoli ne ha usati 18, ma in entrambi i casi c'è un 11 titolare, Giancarlo. Sì, c'è un 11 titolare, una squadra chiara, cosa che invece all'Inter non c'è, al massimo c'è un 4-5 titolare. A me piacciono i titolari, a me piacciono le squadre con i titolari, poi succede che ogni tanto uno o due titolari cambino nel corso dell'annata, ci sono delle super riserve, perché si dice anche col 12esimo e 13esimo uomo, e ci sono anche quelli che sono contenti di andare in tribuna o comunque essere assolutamente comprimari con pochi minuti. Perché ci sono certezze, perché i giocatori non sono tutti uguali e perché alla fine ci deve essere una sintonia, un qualcosa che va al di là proprio dello schema che ti dà l'allenatore. Sai, se il tuo compagno che ti gioca vicino ogni tanto scivola, devi avere la percezione, ci sono delle cose che non si riescono a codificare prima di andare in campo, sì. E hai bisogno quindi dei titolari, e quindi l'Inter secondo me, e alla fine quello che poteva sembrare tutta questa rotazione un fatto positivo, io continuavo a dirlo che Icardi e Jovetic andavano messi anche in camera insieme la vigilia della partita. Verissimo. Perché se questi due non capiscono come giocare insieme, è chiaro che l'Inter è già un miracolo se arriva aperto. È verissimo questo, verissimo, perché è chiaro che non crei nessun automatismo, nessuna dimensione automatica nel gioco della squadra, e poi hai pari a dire ma l'Inter non ha gioco. È anche vero che c'è una profonda crisi degli attaccanti, e ieri le parole di Mancini sono state durissime, vorrebbe tornare in campo lui a 50 anni. E al pari di quello, ecco, vero, degli errori, ha parlato anche di lacune mentali, cioè calcistiche, per l'amor di Dio. Sì. Mi raccomando, adesso devo pesare anche le virgole. E lui ha detto: avessimo giocato contro la Roma o il Milan o la Juventus, non avremmo preso il gol, perché i giocatori sarebbero stati concentrati fino al 90esimo, ovvero questi giocatori che all'inizio dell'anno dovevano dimostrare di essere bravi erano concentrati fino al 95esimo e portavano a casa l'1-0. Adesso diventano superficiali se non hanno il big match. E quindi questo, al pari di non avere, cioè di sbagliare qualche gol e soprattutto di non avere centrocampisti che gestiscono la partita, ti fanno perdere i punti. Grazie Giancarlo. Grazie. Mille a voi, grazie, ciao. Un abbraccio. Ciao. Giancarlo Marocchi. Pier, parliamo con Dario da Ferrara prima della borsa. Cioè, vai. Vai Dario. Vai. Ciao. Ciao. Ciao. Siamo da Ferrara, patria della gloriosa SPAL che sta tornando in Serie B. Sì, speriamo. E ci manca. Da quanto manca in Serie B la SPAL? Più di 20 anni. Più di 20 anni. Da Cioci e Soda manca. e quindi altro che. Io mi riallaccio al discorso che facevate poc'anzi della crescita del campionato italiano, e la si vede tecnica, tattica, è sempre stato un livello elevatissimo. Secondo me avremo bisogno di importare gli arbitri e la mentalità inglese da noi, per evitare di vedere continue simulazioni ed esagerazioni che secondo me diventano anche un tarlo nella nostra mentalità. Non c'è più quella lotta col coltello tra i denti e con quella voglia di, ma correttezza allo stesso tempo, di prevalere sull'avversario. E sono i mezzucci all'italiana che forse con un aiuto degli arbitri, non sulla precisione e la correttezza dei fischi, ma proprio la crescita secondo me interiore che a noi manca. Lo vedo nella differenza tra le partite, anche ieri sera ho guardato la Juve e tutto un saltare per aria. Dario, però insomma sono un po' le caratteristiche del nostro calcio, cioè dispiace dirlo, forse è cinico liquidarla così, ma non credo possano bastare gli arbitri, è una questione di mentalità, di interpretazione del gioco, e il nostro calcio è, diciamo così, molto tattico e si presta anche a queste cose, no Pier? Non vedremo mai il campionato inglese in Italia, il campionato inglese lo vediamo in Inghilterra. No, ma vedi, è un po' come il discorso che facevamo prima, noi siamo italiani e io, con tutti i difetti e le cose un po' da retrogradi che abbiamo nel nostro paese rispetto ad altri paesi, sono orgoglioso, fiero e felice di essere italiano. E credo che anche calcisticamente noi abbiamo sicuramente delle cose che dobbiamo migliorare. Abbiamo una scuola che è questa. Una scuola che è una scuola chiaramente machiavellica, molto tattica, di un calcio appunto basato sulla strategia. Non a caso i migliori allenatori del mondo mediamente vengono dal nostro paese. Guardiamo nella storia, noi abbiamo avuto fasi positive e negative dal punto di vista tecnico sui giocatori, ma dal punto di vista della scuola degli allenatori siamo sempre stati al top, anche nei momenti difficili come in questi ultimi anni. E quindi la mentalità fa assolutamente, ma questo ci si arriva con l'educazione, ci si arriva con le tanto vituperate televisioni. Io mi ricordo all'inizio, quando c'era la PTV, sembrava che oggi la PTV, oggi vediamo il campionato inglese, vediamo il campionato francese, vediamo il campionato spagnolo, vediamo il campionato. Quindi si crea ormai le nuove generazioni di appassionati di calcio. Sono appassionati che hanno visto ieri Arsenal-Chelsea, che guardano il Paris Saint-Germain di Ibra, che guardano la Champions e guardano pure Bayern-Shakhtar. Quindi questo, magari secondo si me appassionano di più a quello che non a una partita del campionato italiano, ma anche questo è legittimo. Anche a tutte e due. Anche per dirti, la Serie B è un campionato che è molto seguito. Cioè, insomma, c'è più concorrenza, ma c'è anche più passione. Secondo me c'è più cultura calcistica. Io ti dico, negli ultimi anni, anche attraverso programmi televisivi e cose, secondo me abbiamo portato gli intellettuali a parlare di calcio. L'abbiamo completamente sdoganato, che sembrava fino a qualche anno fa che fosse una roba per minus abens, no? Sì, che certo, l'appassionato di calcio fosse per forza l'ultra in senso dispregiativo, certo. Perché poi grande rispetto per gli ultra in generale, ma insomma quello che deve per forza sfondare... Caro amico uligano, ecco, come cantare. Caro amico uligano. In realtà il calcio è di tutti, è uno sport fantastico, in Italia appassiona tutti, gli altri sport fanno fatica dal punto di vista mediatico, sicuramente questo è un peccato, però secondo me la cultura calcistica cresce di anno in anno, e quindi sono d'accordo, certamente la simulazione fra tutte le scorrettezze è una delle più odiose. È una delle più odiose, però ripeto, è anche abbastanza difficile sradicarci dal cervello, magari un giorno ce la faremo. Ci fermiamo per la borsa, che siamo in ritardo, torniamo subito. Guido da Milano, aspetti lì. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. You now don't make a sound. Say, have you heard the news today? One flag was taken down to raise another in its place. Io penso questo, che se fosse stato Inter-Roma 1-0, quella palla lì ultima sarebbe andata sulla bandierina a proteggerla, perché era finita la partita. La stessa cosa nel gol del rigore che abbiamo cessato al Sassuolo. Cioè sono proprio cose che bisogna, dove tu devi pensare per fare queste cose qua. Allora così tu migliori la squadra e migliori tutto il resto. Due palle che abbiamo avuto per chiudere, cioè, sono state clamorose. Se giocavo io a 50 anni, forse facevo gol. Quindi... Ma quello di Icardi l'avrebbe fatto anche Marocchi, secondo te? No, forse no. No, quello no. Sì, Marocchi sì, ce l'aveva sul sinistro, ce l'aveva, sì, sì. Così il dopo partita di Inter Carpi di ieri con Mancini, che le ha cantate chiarissime ai suoi giocatori. Tra poco ci torniamo, 800 24 00 24, il numero verde. Intanto Gervinho saluta i compagni a Trigoria e il calcio italiano e prende l'aereo per la Cina. Andrà a giocare nell'Hebei Fortune, squadra un po' ai confini dell'impero, molto distante, molto lontana. Potrebbe seguirlo molto presto anche Guarin, che è in trattative avanzate con lo Shanghai. Guido, buongiorno, grazie per averci aspettato. Anche a voi, grazie per la partecipazione, siete una radio stupenda, perché grazie. Anche di economia, che sono malato e vi ascolto per il calcio e per l'economia. Come dici del petrolio? Che succede al petrolio, secondo te? Il petrolio è molto dura, comunque ci sarà una ripartenza del petrolio, come sempre. Ripartenza adesso, del petrolio. Ma sì. Sicuramente, perché sennò l'economia non riparte più. Il petrolio deve andare a 50. C'è ancora il Fuzzi Mittel. Il Fuzzi Mittel adesso oggi sta perdendo, comunque... Vi garantisco che ci vorrà un po' di tempo, però è dura per tutta Europa. Sì. Qui ci raccontano anche tante barzellette, signore. No, per rimanere in tema petrolio, poi magari parliamo di calcio. Cioè, mio più caro amico che lavora in quell'industria. Io l'avevo chiamata 2 mesi fa dopo Inter-Udinese. Gli avevo detto, siccome io sono malato di calcio, ma veramente sono 40 anni che ci vivo in mezzo. E gli avevo detto che l'Inter, dopo la vittoria con l'Udinese, avrebbe vinto pochissime partite, perché è una squadra dissestata, è una squadra che assettica, giocano solo sui singoli, ed è una squadra che ha vinto 8 partite solo su errori e regali degli avversari. Mi spiace che Mancini, ho sentito prima l'intervista, si è lamentato che Icardi non ha fatto gol, però non si ricorda quello che ha sbagliato a destro col Bologna, gli altri giocatori, la partita che ha vinto con la Roma, con un tiro in porta su un regalo del portiere della Roma. Le parate, i regali del Chievo, la partita della seconda del campionato col Carpi, che Carpi ha giocato alla grande, non gli è andato un rigore, non è che io ce l'ho con l'Inter, premetto che sono un assetico di calcio, ovvero non tengo a nessuna squadra, a me piace il calcio in generale. E anche domenica Mancini con l'Atalanta ha avuto un'autorete regalata, ieri gli ha regalato il gol su una palla che in mezzo a 4 difensori gli è andata sui piedi L'Inter non costruisce un'azione da gol decente. Il gol che ha fatto il Carpi, l'Inter non lo fa. Anche su errori in quel caso Juan Jesus non benissimo, l'intera Inter in quella situazione non benissimo dal punto di vista difensivo, però io non credo insieme a Pierluigi che si possa rubricare tutto sotto la così la dicitura regali o fortuna. No, anche perché insomma questo vale anche al contrario, cioè l'Inter alla fine perde 3 punti fra Sassuolo e Carpi con delle cose negli ultimi secondi, no? Con degli interventi negli ultimi secondi, il calcio di rigore contro il Sassuolo e il regalo di ieri contro il Carpi con gol in contropiede. No, io penso che sicuramente, anch'io sono d'accordo sul fatto che l'Inter, l'ho detto 1000 volte, sembrava quasi che c'è qualcosa contro l'Inter, non mai entusiasmato in questa stagione, no? Dal punto di vista della qualità estetica, anche nei momenti in cui andava molto bene come classifica. Adesso però non mi sembra fortunata, credo che sia onesto dire, sì, così come dicevamo che era fortunata prima, dire che non è fortunata adesso. No, gira male, come c'è un autogol, per carità, c'è stato a favore contro l'Atalanta, ma c'è stato anche un autogol contro, quindi voglio dire, a parte che poi valgono gli autogol, conta Andanovic, conta tutto. La verità è che l'Inter, per riuscire a lottare per lo scudetto, doveva crescere. Lo diciamo dall'inizio del campionato. Ma mi sembra però che in questo momento ci sia un eccesso di critica a guardarla in maniera fredda. Sono sempre risultati, certo. Un eccesso di critica nei confronti dell'Inter e di Mancini. Le critiche sono corrette in questo momento, ma mi sembra siano eccessive, perché tutto sommato, ripeto, il risultato dice 3° posto, tenendo lo scudetto credo sia passato, ma manca ancora molta ferrovia, manca ancora molta strada ferrata. E c'è la semifinale di Coppa Italia, vero Evaristo Beccalossi? Sbaglio? Ma siamo salvi? Non lo so, a sentire qualcuno c'è ancora da discutere. No, sono preoccupato, che magari devo preoccuparmi per la salvezza. Cioè, 41 punti dovrebbe essere fatta, dai. Sì. È fatta, quindi sì. Sono tranquillo lì. Sì, si resti in A. No, col massimo rispetto, che credo insomma, che ognuno possa scrivere giustamente le proprie, così, il proprio giudizio. Io credo, allora partiamo dall'inizio. Chi ha detto che l'Inter era da scudetto? Nessuno. L'hanno detto i risultati, Evaristo. L'ha detto la classifica. Però, ci sono grandi però all'inizio credo che Juve, Roma e Napoli avessero qualcosa in più. Poi dopo mi ripeto già da un po', perché credo di essere una persona molto equilibrata. Però mi fa arrabbiare quando magari la Juve è partita male, la Roma ha avuto dei problemi. Inter e Fiorentina, secondo me, sono state brave a infilarsi lì. E quindi adesso è un momento che sono lì a lottare per il 3° posto, però l'obiettivo iniziale era arrivare nei primi 3. Uh-huh. In questo momento, durante questo percorso, ci siamo trovati anche primi. È chiaro che vai a spingere e dire sì, cerchiamo di stare più in alto possibile, però qualche problema cammin facendo è venuto fuori. E secondo me già essere ancora lì al terzo posto per l'obiettivo finale di arrivare anche terzo per la Champions League, non vedo perché si debba andare, è tutto sbagliato, tutto da rifare, Mancini non capisce più niente, tutte quelle cose lì. Credo che un po' di equilibrio in più ci vorrebbe. Assolutamente, sono abbastanza, sono d'accordo con quel Poi dopo io vado duro perché quando si fa le squadre lì... cioè, credo che tutta gente all'altezza della situazione per poter valutare. Cioè, non è che cambiare 9 o 10 giocatori tutti in un momento, c'è un'identità tattica, c'è 7-8 giocatori che puoi puntare su di loro e fare un 2-3 giocatori magari il turnover. Noi abbiamo fatto questo inizio, tutte le domeniche cercavo una soluzione diversa, addirittura si è giocato anche senza il primo centravanti che era Icardi, quindi problemi ce ne sono stati, però poi da lì è tutto da rifare, non credo, bisogna migliorare, no, però, gli errori che si fanno. Però adesso, subito dopo il traffico, con Pierluigi approfondiamo un paio di discorsi. Primo, l'attacco durissimo di Mancini nei confronti dei suoi attaccanti, e secondo, quello di cui discutevamo prima con Marocchi, cioè una certa chimica alla fine la devi trovare, perché 21 squadre cambiate in 20 squadre cambiate in 21 partite mi sembrano eccessive. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Pierluigi Pardo, è vero o no? Insomma, Mancini ha cambiato forse troppo per trovare gli equilibri giusti. Certo, ieri le ha cantate chiarissime i suoi attaccanti, non capita tutti i giorni di sentire un'accusa così diretta e così circostanziata. Li ha lasciati al vento. Ne parlavamo ieri con Capuano, il quale aveva qualche dubbio, diciamo, sulla strategia di comunicazione, chiamiamola così, qualche dubbio ce l'ho anch'io. La sensazione che fosse uno sfogo dettato abbastanza dalla rabbia c'è, può essere anche una scossa, insomma, poi alla fine sai che... No, ma io la leggo come la seconda che hai detto, sì, svegliatevi perché è chiaro che è inusuale perché di solito gli allenatori difendono i propri giocatori, gli fanno da scudo. Evidentemente era proprio spazientito, oppure sa che ci può essere una reazione di un certo tipo che si può tirar fuori, e per tirarla fuori c'è bisogno assolutamente di responsabilità e cerca di stimolare questa responsabilità. Non è facile la situazione, però insomma lui ha il polso dello spogliatoio, allenatore esperto, secondo me se ha un'uscita di questo tipo è perché è funzionale a un certo obiettivo. Il Marzio sta facendo bene anche qui, no? Cioè, come tutte ad oggi, 21 giornate di campionato, il Mancio sta facendo bene, non tanto dal punto di vista dello spettacolo, perché non c'è quasi mai stato, ma dal punto di vista della classifica, perché io credo che qualsiasi tifoso dell'Inter prima del campionato che gli avessero proposto questa classifica alla 21ª giornata avrebbe preparato. No, ma sai, improvvisamente per molti è diventata una pippa dal fenomeno che era, ma funziona così, Beck. Ma tu ti saresti arrabbiato fossi stato un attaccante di Mancini dopo quelle parole? Ma arrabbiato, chiaro che nei spogliatoi magari qualcosa si può dire, si può ragionare, però io credo che sia stata anche un'entrata tesa, proprio dura, per scuotere un po' l'ambiente, perché insomma in questo momento sicuramente ci sono dei problemi, però non bisogna buttare via tutto quello che di buono si è fatto partendo da zero, quindi chi c'è, io ragiono in un attimo e dico ok, con tutto il rispetto del Carpi, ha pareggiato al 93esimo e tutto, però lì una squadra esperta, abbiamo sbagliato 2-3 gol, tiri una riga e la partita deve finire così. Quindi io credo che vada anche, quando dice le punte devono aiutare, è la mentalità che quando si può giocare, costruirsi, si gioca e si costruisce. Nell'attimo che c'è a tirare una riga si porta a casa l'1-0, anche perché non convincendo sempre sul piano del gioco, quando c'è stato fatto la serie di 1-0 l'hai portata a casa così. Quindi in questo momento, secondo me, al di là di migliorare il gioco, e sicuramente c'è margine di miglioramento, però quando tu aggiungi certo quelle buone o quelle cattive, devi tirare una riga e portarla a casa. Sì, certo che ieri Mancini ha detto, a proposito di Sarri, che ha indossato ieri in segno di pace la sua sciarpa, la sciarpa che porta tutte le domeniche con Roberto Mancini, ma io non ho niente di suo, mi desse Higuain, mi farebbe anche un piacere. Cioè, insomma, Certe volte è facile. Il Napoli è una cosa meravigliosa, la Juventus ha una sua solidità, una sua convinzione interna. Scusa, ti interrompo, vedi, l'anno scorso Higuain era triste, voleva andare via da Napoli e poi è arrivato un allenatore, ha toccato le corde giuste, guarda cosa c'è, uno che viaggia un gol a partita, chi è che non lo vorrebbe in squadra? Ma è chiaro che di Higuain ce ne sono uno. Sì, invece di Jovetic ne è rimasto meno della metà. Io deve dare di più, perché quando ma è arrivato di più, ha dato niente fino adesso. Esatto, ha fatto poco perché ha grandi qualità, però lì sai, quando cambi tanto puoi anche prenderci subito, oppure qualche problema lo puoi avere. Però ecco, da lì a insomma, io negli ultimi anni l'ho seguito l'Inter, cioè arrivavo a San Siro e era calma piatta. Adesso vengano anche le critiche, però vuol dire che sei vivo e quindi la squadra deve ricompattarsi e andare a lottare per arrivare alle prime tre. C'è energia, insomma, c'è energia. C'è energia. Grazie, Beck. Piatto ricco, vestifico. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao. Dario, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi. Grazie per averci aspettati. Auguroni a Beck, anche se sono milanista, però è sempre stato un grande. Sì. Una considerazione la chiedo a voi. Io sono milanista, come l'ho detto, e guardo le partite del Milan. Domanda stupida, ma vedere giocare De Sciglio e Balotelli, mi chiedo, ma perché sti ragazzi c'hanno sempre una voglia, tipo se stessero andando al patibolo invece di metterci un po' di buona volontà? Voi che siete più tecnici di me, secondo voi cosa hanno? Non voglia, vogliono andare via, non vogliono star lì? Cosa hanno? Sono stanchi perché lavorano troppo? Io faccio 12 ore al giorno a 53 anni, cioè non mi sembra di essere ridotto così male. Chiedo a voi, grazie. Distinguerei Balotelli, appena tornato da un lunghissimo infortunio, e chiaramente non è in condizione, l'abbiamo visto l'altra sera ad Empoli. De Sciglio ha avuto un periodo di regressione, ma non tenderei ad escludere la mancanza di voglia di impegno di queste cose, la mancanza di voglia di lavorare. C'è sempre questo piccolo equivoco, nel senso che poi, a parte alcune situazioni, come forse Balotelli in alcuni momenti, secondo me non adesso, ma in alcuni momenti della sua carriera può aver rappresentato una di queste eccezioni, ma mediamente ci sono sempre gli avversari, e gli avversari complicano clamorosamente il gioco e la vita, cioè non è che uno soltanto perché è bravo, perché viene pagato molto, deve vincere o deve essere un deve giocatore. Giocare bene tutte le volte. Ci sono gli avversari, ci sono i momenti in cui il tuo fisico non reagisce come dovrebbe. Del momento in cui perdi fiducia, che può essere fiducia. Il caso di De Sciglio, mi sembra un po' perso. Questo perché poi spesso, no, quando vediamo le contestazioni, anche quelle becere, addirittura quelle violente, sembra sempre questa cosa qui. Io, ripeto, a parte alcune situazioni delinquenziali, che però capitano una volta ogni 10 anni... e meritano gli interventi della magistratura. Cosa ti riferisci? Ma no, dico che a parte alcune situazioni particolari, so, gli scandali che ci sono stati, le scommesse, ma mediamente un calciatore non vuole mai perdere, non vuole mai fare una brutta figura, non vuole mai. Stanno lì che giocano e hanno, secondo me, la stessa voglia, la stessa grinta, lo stesso agonismo che abbiamo noi quando giochiamo a calcetto il giovedì sera. Sì. Cioè, è lo stesso tipo di approccio. È che poi ci sono gli avversari. No, ma ti ripeto, ci sono gli avversari e l'avversario qualche volta può essere te stesso, come è successo tante volte a Balotelli, come sta succedendo a De Sciglio. Ci sono dei momenti in cui non riesci più, magari nemmeno a fare quello che facevi, ma questo capita in tutti gli sport, i momenti di down, di flessione, che possono essere più o meno lunghi, gli avversari e i momenti di difficoltà. Ma ripeto, tenderei ad escludere il fatto che questo accada perché non abbiano voglia di lavorare, di correre, di fare calciatori, insomma, tenderei ad escludere il coro andato a lavorare che molto spesso sentiamo. Sentiamo invece Giovanni da Verona cosa da dirci. Sono pronto? Pronto Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io intanto mi dispiace, mi farei fare l'autografo da Evaristo. Sì, autografo sonoro, glielo possiamo mandare. Grazie. Poi un'altra cosa era solo per dire che non è nel linguaggio comune, mai mi verrebbe da dire zingaro di merda o socio di merda, insomma. Questo qui è non c'entra nulla la concitazione del momento della gara o di quant'altro. No, allora, secondo me è una questione di maleducazione. Ha ragione da vendere Pardo quando dice che su episodi di questo tipo è bene fare chiarezza il più presto possibile con grande onestà. Però dobbiamo anche dire, per Luigi, l'abbiamo detto molte volte, che un campo di calcio, un campo di in cui si pratica sport, non è esattamente un ambiente di lavoro come gli altri. Ma ragazzi, io posso fare altri. Io ho sputato, avevo 16 anni probabilmente, a un mio amico Corrado Maugeri, carissimo, che conosco da 30 anni, durante una partita di calcetto 20 anni fa, e gli ho sputato sulla maglia, una cosa, sì, diciamo, a salve, è una cosa che non mi vergogno solo a dirla, infatti la dico, succedono delle situazioni, poi è ovvio che l'esperienza di un giocatore, il ruolo pubblico, le telecamere, le situazioni fanno sì che chiaramente uno si dovrebbe comportare con un'attenzione di tipo diverso. Ma essenzialmente l'adrenalina che c'è in campo, forse non dovevo raccontarla, l'adrenalina che c'è in campo durante una partita a calcetto, una partita vale anche lì, per loro, vale anche per loro. Quante volte sono delle liste, vale, quante volte sono delle situazioni nelle quali uno dice una cosa che non pensa. Io ripeto, sono sicuro, sono straconvinto che Sarri non sia omofobo, e sono altrettanto convinto, conoscendo anche un po' personalmente, che De Rossi non abbia nulla contro nomadi, gitani, zingari, non è un manifesto politico, non è una adesione a chissà quale gruppo neonazista, è una frase di un giocatore che in quel momento l'avrà provocato, certamente molto sgradevole, perché poi la telecamera la riprende e può dare adito a quell'interpretazione lì, ma è esattamente come delle cose che nella vita, insomma, voi avete mai litigato con qualcuno? Si dicono delle cose che poi 5 minuti dopo ti pentiresti di dire, no? Ti pentiresti, e se è il caso e se è possibile vai a chiarire, in questo caso ovviamente in maniera pubblica, come pubblica è stato l'episodio. Io guarda, la vicenda Sarri è una vicenda assolutamente paradigmatica di come questo è un meccanismo anche mediatico. È chiaro che se rimani zitto, rimani in silenzio, ti sfondano. Certo. Ed è infatti il consiglio che do a De Rossi, nel senso che proprio oltretutto, perché conoscendolo credo che lui abbia un approccio e non pensi assolutamente, sia il primo a dispiacersi se qualcuno si può sentire offeso dalle sue parole, questa è una cosa che però deve chiarire lui. Sì, è chiaro, deve chiarirla al più presto e nella maniera più, insomma, più tranquilla e più serena. Nella maniera più tranquilla e più serena. Adesso non lo so, ma magari Mangio che ci avrà detto qualcosa. Ma sì, però a patto che De Rossi poi... che discutiamo se Zidane, sì, e Materazzi, se stessero, esatto, parlando della madre, della sorella, cioè si parla di alcuni... Voglio dire, fa parte della vita. L'importante è che dopo il momento in cui ci si accapiglia, in cui si liti, ci sia un momento di presa di coscienza e ci sia anche un momento di scuse. Oggi Sarri passa, secondo me, giustamente alla fine con un'immagine positiva, gli rimane la macchia, certamente, soprattutto all'estero, rimarrà quello che ha detto Frocio, ma nel vissuto è un uomo che ha commesso un errore e si è scusato. Sì, e di fronte a un uomo che si scusa, comunque l'opinione pubblica è particolarmente benevola, ma giustamente, perché comunque non è mai un atto facile. No, ma assolutamente. Pier, ci vediamo stasera a Tiki-Taka, ci sentiamo domani pomeriggio. Saluto Corrado. Sì, stasera di tutto di più a Tiki-Taka. 23-25, mi raccomando. 23-25. Italia 1, ciao. Ciao, a dopo. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Secchi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Che dire, arieccici. Tutti convocati. Per far pace con Mancini, indifferita. Lei ci dà una tuta di quelle del Napoli che c'ha. Ti do una felpa, a me ha portato fortuna. Speriamo la porti anche a lui. Per fare pace, definitivamente. Oh. Felpa ufficiale del Napoli. E la mia mi ha portato fortuna. Allora facciamo pace con Mancini. Ma io l'avrei fatta dopo 3 secondi. La posso baciare? No, signore. La prego. Primo, baciare. Non sei particolarmente attraente. Ma come? Mancini, guarda che sotto sotto Mister Sarri è più frocio di te. Che cos'è questa qui? la sciarpa col Padre Nostro. Perché lei la indossa spesso? Perché io sono religioso e c'è un Padre Nostro in tutte le lingue del mondo, per la fratellanza dei popoli. No? Posso portare a Sarri la sciarpa? Sì, sì, come no. Ok, vediamo se Sarri indossa questa sciarpetta. Ti abbraccio Mancini. Posso darle un bacio? Come no. Diciamo la verità, siamo tutti un po' feroci. Se lei questa sciarpa la porta in capo, la mette in tasca, la fa vedere un attimo, è il massimo della pace. La porto, però poi non la posso tenere per tutta la partita, mi sentirei un po'... Perfetto, allora il mister la porta in campo per un attimo, ce la fa vedere, così proprio la pace è fatta. La pace è fatta. E così è finita questa vicenda che ci ha tenuti impegnati la settimana scorsa grazie alle Iene. E avete visto poi ieri la sciarpa al collo di Sarri e Mancini che dice vabbè, non mi ha dato niente, ma non so se gli è arrivata la felpa. Gli sarà arrivata? Gli è arrivata la felpa. Però vorrebbe anche Higuaín. Questo non se può fa. Invece una voce in proposito, Gattuso. Ho visto che Sarri è stato denunciato pure dalla Ve. Del rappresentante della DC, io mi faccio i cazzi miei, non voglio, mi faccio i cazzi miei, perché qua si rischia, ormai siamo diventati un paese di permalosi, e si offendono tutti, allora già c'è abbastanza di problemi e non voglio entrare nella polemica. Amen. Sulle parole di Gattuso. Poi ovviamente ieri siamo ricascati, abbiamo già parlato ampiamente con De Rossi e poi con le parole di Spalletti dopo la partita su questo episodio, su questo insulto che ormai conosciamo tutti a Mandzukic. Come... c'è il labiale che è stato ripreso dalle telecamere. Non ha messo la mano davanti alla bocca. No. Gli insegneremo a fare questo. No, adesso a parte gli scherzi, le chiedo nervosismo. Mandzukic è andato lì a parlare con tutti, ha preso per il culo tutti per 10 minuti, nessuno gli ha detto niente, per cui io insegnerò ai miei giocatori a fare come lui, a mettere la mano davanti alla bocca, che così non gli si legge il labiale, perché De Rossi ha risposto a quelle che sono state le indicazioni che gli sono state date dal suo avversario. Poi deve essere bravo, però quando si perde, quando si sta passando un momento di difficoltà come questo, si perdono delle attenzioni particolari come quella della mano, di tenerla lungo il corpo invece di mettersela davanti alla bocca. Gli insegneremo anche questo. Beh, più che altro sarebbe meglio tenere la lingua a posto più che la mano davanti alla bocca, e secondo me in questa occasione Spalletti ha perso una opportunità di dire qualcosa di più saggio. Ciao Roberto Renga, buongiorno. Buongiorno, sì. La penso anch'io così, sentivo Spalletti e inorridivo. Dico, ma come, questo devi insegnare? Questa è la morale vista dal buco della serratura, sinceramente. No, non mi piace. Bisogna prendere questa occasione per far capire a tutti i protagonisti del calcio che devono comportarsi in una maniera più umana e più normale. Non dico educatissima, per carità, non sono dei sacristani, eccetera. Ma si ricordino che sono uomini e che stanno solo facendo dello sport, niente di che. Sì, questo certamente, e più che la mano davanti alla bocca servirebbe un po' di buona educazione, o se si scivola, si diceva prima, anche un pubblico chiarimento alla fine non è male, ma senza mano davanti alla bocca, cioè, certo, parlando in modo preciso, esattamente l'opposto di quello che ha detto Spalletti. Sì, perché cosa possiamo dire ai tifosi che poi fanno i cori? In campo succede quello. Che siamo sullo stesso livello, no? Quelli che stanno sì, i bambini che poi giocano a pallone, quelli che stanno alla scuola calcio a 5 anni, a 7, a 10. Sì, se lo dice De Rossi, lo dico pure io. Sì, poi non se io sono papà del bambino, prendo seri provvedimenti, mettiamola così, perché poi l'educazione non deve passare attraverso De Rossi, ma deve passare attraverso chi sta un po' più vicino. Lo so, no? Senti, lo so, però come sai, succede. Lo so. Bisogna stare attenti, insomma, anche con soprattutto a quello che dicono i nostri figli. Roma ridotta ai minimi termini ieri, ha provato con le armi dei poveri, ordine, sacrificio, abnegazione, ritmi bassi, ma non basta. La notizia è che insomma, di scudetto è chiaro, non se ne parla più, ma in questo caso ufficialmente, no? Anche se era evidente. Adesso anche il terzo posto è molto lontano, molto lontano. E addirittura è più vicina alla sesta, cioè c'è il Milan che sta a 2 punti. E la Roma deve stare molto attenta, perché se non arriva almeno terza, non si siede almeno sullo strapuntino, no? Uh-huh. Per giocare i preliminari di Champions perde un sacco di soldi. Uh-huh. Per cui Spalletti, che dovrebbe essere l'allenatore del futuro, in realtà deve essere, risultare l'allenatore del presente, perché altrimenti il futuro non so quali sia. Ma ha detto che ci vorranno 5 mesi prima di mettere a posto sta squadra. È un po' tardi però, perché tanto, la Roma non sarà in Champions. Sì, chiaro. E quindi i soldi... Chiaro, appena arrivato ha detto che la squadra fisicamente stava benissimo. A me non sembra, vista alla riprova anche di ieri sera dopo la partita col Verona. No, assolutamente, anche ieri. Avrai notato che la Roma non ha fatto mai pressing. Non c'è mai uno della Roma che sia andato a rincorrere, se non Dzeko qualche volta e da solo, gli avversari. Perché? Perché non ce la fanno. Uh-huh. E come l'ennesima volta è successo che la Roma ha ceduto nel finale. Al 65esimo c'è stata l'occasione per Ebra, al 75esimo il gol di Dybala. Non è occasionale. Sì, sì. Sentiamo cosa ha detto Nainggolan al nostro Dario Ricci. Che devo dire? Penso che sicuramente aspetterà di più da noi. In questo momento, lavorando sulla fase difensiva, penso che comunque stiamo migliorando. Poi ovviamente bisogna migliorare anche quella offensiva. Quindi Mario voleva dire questo. Penso che a noi ci manca un po' di fiducia e cioè bisogna cercare di vincere prima possibile per ritrovare magari la fiducia e di poter far vedere che comunque sia siamo sempre una grande squadra. Un problema più tecnico o psicologico a questo punto? Magari un po', secondo me in primis un po' psicologico, perché magari manca un po' di personalità, magari un po' di invenzioni, no? Che magari prima quando vincevi arrivava da solo e in questo momento magari non la troviamo. Quindi una Roma bloccata psicologicamente a terra e molto depressa, ha detto Nainggolan al nostro Dario Ricci dopo la partita. Non, magari un po' di Totti, Roberto Renga non guasterebbe, se non altro per dare un però po' di fiducia. Non vorrei nemmeno che una volta di più si chiedesse aiuto, no, nel momento della disperazione a Totti, perché poi il peso diventa eccessivo anche per lui, e ricordiamoci che ormai si avvicina, no, a un'età in cui di solito uno sta dietro la scrivania. Mm. A me sembra che la Roma abbia sì dei problemi psicologici, manca un leader, per esempio lo era Maicon, no? Lo potrebbe essere Lobont, addirittura quelli che non giocano, non De Rossi per i motivi che abbiamo visto, però che manchi la rosa. Mm. Cioè non ci sono i giocatori, in questo momento per esempio Gervinho è stato ceduto. Sì. No? Ebbene, Gervinho ieri in una squadra che non attaccava sarebbe stato utilissimo, al posto di Salah che è sparito. Sì. Perché magari teneva la palla, giocava da solo, no? E anarchico com'è poteva essere d'aiuto. E a me sembra che la Roma sia ridotta ai minimi termini. Lo sai che non ci sarebbe stata una riserva per esempio per Digne? Sì. E quando è uscito Wenger è entrato Keita, che in questo momento non è in grado di giocare. Sì, e se si faceva male uno dei difensori, chi avrebbe giocato il difensore? Non c'è nella Roma. No, adesso Gervinho, come detto, è andato via, Iturbe è andato via senza rimpianti, arriverà El Shaarawy, ma secondo me la coperta rimane cortissima, cioè non può ridursi a questo il mercato della Roma. Poi bisogna vedere gli obiettivi, però non credo che insomma siano arresi a questa apatia fino alla fine della stagione con una qualificazione magari all'Europa League. Non lo so, è molto strano vedere quello che succede, perché allora prenderanno Sarabia della Roma, sì, e prenderanno forse anche Perotti, perché c'è questo famoso giro Roma, Genova, Milan, mm, per cui i giocatori devono andare a finire da una certa parte. Mm. Sono buoni giocatori, sono un po' delle scommesse, no? Per motivi diversi, ma le certezze ci vogliono dietro. Mm-hmm. Come fai a fare la difesa a 3 se tu hai solo 2 stopper più De Rossi? Certo. Certo. Questo... La differenza con la Juve era la panchina ieri, anche quella, oltre il gioco. Diciamo. Beh, la differenza tra la Juve e molte altre è la panchina, tante, Roberto. Tante, sono tante, però c'è anche quella. Sì, sì. Poi è chiaro anche che, ne parlavamo prima, la Juventus è molto profonda, è molto lunga, più di tutte le altre, però ha 11 titolari, Allegri come al solito legge meravigliosamente la partita, e ditemi quel che volete, continuo a pensarlo. Poi qualcuno potrà pensare che è fortunato, però ieri ennesimo colpo di fortuna quando mette Cuadrado, che peraltro sta giocando pochissimo, e la partita cambia faccia. Ma guarda che a me ricorda, sai, Allegri nella gestione delle partite, Capello. Mm. Capello è un altro che faceva un calcio di posizioni, no? E sì, di uomini. Sì. Dice, al 60° metto questo giocatore perché li metto in difficoltà sulla sinistra, oppure metto quello veloce perché adesso loro cominciano a essere stanchi. Sì. Lui sì, è molto molto bravo nel gestire nel muovere le pedine come se veramente giocasse a scacchi. In sì, questo è il più bravo. Sì. A me ricorda anche un po' Marcello Lippi in questo, nella capacità. Marcello, nella capacità comunque di intervenire in maniera decisiva sulle partite in corso d'opera. Roby, un'ultima cosa invece riguarda la Lazio. Lazio ha trovato il passo, ieri ha trovato anche un po' di fortuna, diciamolo, perché anche, Chievo anche sfortunato con gli episodi arbitrali, diciamo sfortunato, sì, senza sì, sì, timore di smentita. Però il secondo tempo della Lazio è stato buono. Sì, ottimo. Io ho visto la partita e la Lazio ha cominciato a ritrovare un po' il gioco dell'anno scorso, e con Keita che è bravo, Felipe Anderson che quando è entrato ha dimostrato che forse sta ritornando il giocatore che conoscevamo, addirittura Klose che si è messo a fare quasi il difensore, Cataldi che finalmente ha fatto gol ed è un giocatore giovane romano che fa gol, ne siamo contenti. La Lazio ha problemi in difesa, dietro mette un po' paura. Però ricordiamoci che è in una striscia positiva. Sì. Per esempio le ultime tre trasferte sono state due vittorie e un pareggio. Certo. Ieri questa vittoria e la sconfitta di Coppa con la Juventus non la considero. No, preventivabile. Però diciamo che il vento è cambiato, ma è cambiata anche la condizione dei giocatori. Questo ad essere onesti, basta guardarli. Insomma, poi ci sono due giocatori come Candreva e Parolo che io prenderei in qualunque squadra. Peraltro, poi posso Candreva in particolare. Candreva in particolare è utilissimo, tattico, un giocatore tattico e giocatore da allenatore. Sì, esatto. Grazie Roberto, a presto. Grazie a voi. Ti abbraccio, Roberto Renga. Adesso sento Fabrizio da Roma, parliamo con Fabrizio da Roma, Giovanni da Verona, 800 24 00 24, e poi vi faccio sentire il podio delle dichiarazioni del weekend. Fabrizio, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti, grazie per lo spazio. A lei. Io non intervengo in una trasmissione di calcio e per me è un po' un'eccezione in quanto non ne ascolto molte, sono molto all'estero. Mm. Oggi ero in macchina con le mie due figlie che devo dire eccezionalmente sono riuscito a prendere da scuola e accompagnavo anche due bambini, io ho due femmine, due bambini di 12 anni che venivano a casa per svolgere dei compiti insieme. Ora, seguo la vostra trasmissione perché fa parte di quelle parentesi culturali che il nostro paese ci offre rispetto ai media, ritengo che insomma la media sia abbastanza scarsa, trovandomi l'80-90% del mio tempo in giro per il mondo. Però la vostra trasmissione di calcio mi fa piacere, ha affrontato il calcio credo nel modo corretto, quindi complimenti. Però ascoltavo, devo dire, l'ultimo intervento, mi perdonerete, non conosco i nomi dei giornalisti sportivi così bene, e l'ultimo intervento mi ha un po' rubato le parole rispetto al fatto di Daniele De Rossi. Quello di Roberto Renga che abbiamo sentito ora. Sì, insomma, devo dire che era in linea col mio pensiero che volevo condividervi, perché ero in disappunto molto forte rispetto all'intervento del giornalista che raccontava il suo sputo personale sulla maglietta del suo amico. Era Pardo, sì. Ora, è chiaro che il calcio, io ho due figlie che fanno altro, sono femmine, non giocano a pallone, seguo i nipoti che vanno a giocare a calcio e vedo un ambiente, ho giocato a calcio anch'io come tutti noi, e come tutti noi ogni tanto c'è la partita a calcetto tra amici. Ora, se noi facciamo passare il concetto, io ascoltavo in macchina con quattro bambini, per questo raccontavo la mia piccola parentesi quotidiana, che ripeto è un'eccezione, se noi facciamo passare il concetto a questi bambini, e io lo ascoltavo in diretta, che si sputa sulla maglia del proprio avversario e che l'adrenalina lo giustifica, possiamo far passare qualsiasi cosa. Ora non sono come dire, lo sport lo facciamo non, tutti, non no? Lo giustifica. Volevo... Fabrizio, l'adrenalina, sì? L'adrenalina non giustifica assolutamente, non può giustificare uno sputo, un gesto di un insulto come quello, un gesto di maleducazione in generale non lo scusa, però no, non possiamo non tenere conto del fatto che, io dico solo questo, non giustifica nulla, però non possiamo non tenere conto del fatto che su un campo di sport, e lei ne ha frequentati, ci si comporta certe volte per ragioni fisiche, agonistiche, appunto di nel caso dei professionisti, di grande stress, il che non giustifica nulla, di adrenalina, ed esiste, non è lo stesso contesto che noi possiamo trovare nel salotto quando giochiamo a scacchi o per fortuna in un ufficio o in una banca o in una redazione. Accade qualcosa di diverso, ci sono delle dinamiche diverse, il che non scusa nessun comportamento di maleducazione, semplicemente non possiamo non tenere conto del fatto che sia così. Giovanni, Verona, buongiorno. Sì, volevo concludere perché era caduta la linea prima, per dire, e mi riallaccio a quello che diceva il mio collega, diciamo così, in trasmissione, e che non c'è nessuna motivazione che possa giustificare lo sputo, l'offesa personale, l'offesa alla razza, l'offesa niente di questo mondo. Sì. Quindi De Rossi non solo deve chiedere scusa, ma De Rossi deve cambiare modalità di pensiero. Perché questo qui, un calciatore che dice in campo zingaro di merda, non è perché in quel momento è concitato o altro, è perché lo pensa. Ed oggi io che noi siamo non possiamo dire se lo pensi oppure no. Ci siamo trovati anche noi, dobbiamo ammetterlo, in situazioni in cui ci è capitato di dire cose che non pensavamo, salvo poi pentircene e scusarcene. Almeno a me è capitato diverse volte. Se a voi non è mai successo una cosa di questo tipo, non sto parlando di insulti razzisti, eccetera, sto parlando di parole maleducate che non pensiamo. Quindi le scuse sì, una pubblica chiarezza su questo episodio sì, la gogna anche no, ma né per lui né per Sarri né per Mancini né per tutti gli altri, e nessuna mano davanti alla bocca, per favore, perché non è questo il modo, perché metto la mano davanti alla bocca e poi dico quello che voglio. Non, questo mi piace ancora di meno rispetto a certi comportamenti, insomma. Augusto stia lì, dalla provincia di Terni, podio delle dichiarazioni della settimana scelte da Giorgio De Luca e Federico Binda. Allora c'è Ferrero, che se la prende con un giornalista napoletano. Un commento veloce a questa partita, qual è la sua considerazione? Che l'acqua va al mare, questa è la mia considerazione. Il mare è azzurro come la maglia del Napoli, allora, presidente. Ma così è. Allora voi dite che il calcio è fatto di episodi, ma come mai tutti gli episodi a sfavore mio? Lei lo sa che sul gol il secondo gol della Samp, Eder è in fuorigioco, quindi qualche episodio pure a favore del il gol di Eder, quando parte Eder è in fuorigioco. Si guardi bene la partita. L'ho vista tutta, presidente. Quindi Ferrero indispettito se ne va. Poi c'è Guidolin alle prese con la lingua inglese. Era vinto con lo Swansea, La buona la prima, sentiamo come si è espresso poi. Francesco, congratulations. Thank you. Is that the perfect way to start? Yes. With a win is the perfect way. Difficult, very difficult, because I well play in the first half very, very, very, very well. But in the second half, at the end, above all, we suffered very, very... Everton play well in the second half, but I think we win with no lucky, but con meritiamo di vincere. We deserve to win. Guidolin alla prima conferenza stampa in inglese. Si può fare di meglio, mister, ma lo farà. Costa Curta, che ha spiegato un soprannome molto noto di Donadoni. Ci chiedevamo quanto corre Giaccherini, anche i suoi allenamenti, cioè deve essere un giocatore che si impegna moltissimo, un po' come Costa Curta ai tempi del Milan, Roberto? Puoi dire come Donadoni nel Milan. Sì, lui si allenava fortissimo. Lo chiamavamo l'osso. L'osso. L'osso perché lui, no? Sai, adesso il paragone era un po' così, però Robby, visto che le cose stanno andando bene, sì, nel senso che probabilmente lui era come, sai quei cani che devono correre l'osso, e Giaccherini sembra così, è impressionante. Dunque, osso Donadoni, Augusto, ho finito il tempo, di cosa volevo parlare? semplicemente per l'ennesima volta della campagna acquisti del Milan, di quello che si sta prospettando, che è veramente qualcosa di deludente, perché non riesco a capire come si possa non intendere che il problema del Milan è la difesa, e Mexes non può essere colui che tiene in piedi una difesa che ha già avuto problemi per proprio conto, e allo stesso tempo il centrocampo, dove è una vita che si ci si rende conto che manca un centrocampista di personalità di rango, che sia capace di dare palloni a Bacca per farlo segnare, e continuiamo a girare intorno al problema con delle cose che si leggono sui giornali pazzesche, tipo lo scambio Ranocchia-Zapata, che insomma, se uno fa schifo da una parte fa schifo anche dall'altra, non è che se cambia squadra il casacca secondo me, io ci andrei piano nel dire che Ranocchia fa schifo. Secondo me è un giocatore abbastanza sopravvalutato, che gode di una pessima stampa. Ma ne parliamo, torneremo a parlarne nei prossimi giorni, abbiamo tutta la settimana per farlo. Grazie a Giorgio De Luca, a Federico Binda e a Gianmarco Ferronato in regia. A domani. Piatto ricco, mi ci ficco. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.